Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Una puntata speciale del cacciatore di libri dedicata al premio Campiello, assegnato sabato 7 settembre a Venezia. La vittoria è andata a Ugo Riccarelli con il romanzo L'amore graffia il mondo, Mondadori. Purtroppo una vittoria postuma, visto che lo scrittore è morto a luglio per una malattia. Secondo qualcuno c'è stato un effetto commozione nel voto della giuria popolare. Fatto sta che i 300 lettori di diverse fasce sociali e culturali hanno scelto il libro di Riccarelli. 102 voti, una ventina sopra il secondo classificato, Fabio Stassi con L'ultimo ballo di Charlot, pubblicato da Sellerio. Al terzo posto Giovanni Cocco con La caduta, pubblicato da Nutrimenti. A seguire Tentativi di botanica degli affetti di Beatrice Masini, Bompiani. Ultimo, Valerio Magrelli con Geologia di un padre e Einaudi. Ma veniamo al romanzo vincitore, L'amore graffia il mondo. È la storia di una ragazza chiamata Signorina proprio come nome proprio, che ha il sogno di diventare sarta, creatrice di vestiti. Deve rinunciare però al suo sogno, sia per la guerra, la seconda guerra mondiale, sia perché ha un figlio malato. Ancora una volta dunque da Riccarelli un personaggio femminile descritto con grande sensibilità. Così la moglie di Riccarelli, Roberta Bortone, ricorda lo scrittore e il suo ultimo romanzo. Da scrittore lo considero come un uomo di straordinaria sensibilità, e la cosa che mi ha sempre colpito di lui da moglie è che aveva un'enorme sensibilità femminile e una grande curiosità per il mondo femminile, ma non inteso nel senso bieco. Inteso proprio nel senso di grande curiosità per questo mondo capace di dare la vita, diceva lui. E quindi una curiosità di entrare nell'animo delle donne. E questo lo ha reso, per me, un marito straordinario. Non è facile per uno scrittore uomo interpretare la sensibilità femminile, soprattutto le varie sfaccettature. Secondo lei che cosa l'ha aiutato di più a comprendere il pensiero femminile? Allora, io credo, e gliel'ho sempre detto, che sia stato estremamente formativo per lui un periodo in cui lui ha fatto il padre single, perché sua figlia Francesca per alcuni anni è vissuta con lui. E lui ha imparato a doversi svegliare presto, accompagnare la figlia a scuola, andare a lavorare in ufficio, riprendere la figlia da scuola, portarla ai vari impegni e poi prepararle da mangiare e così via. E la notte scriveva. Cioè ha fatto per quegli anni la vita che normalmente fanno tante donne che lavorano. E secondo me questa lo ha arricchito enormemente, perché io da donna credo che l'universo femminile sia molto più ricco normalmente dell'universo maschile. Secondo posto per L'ultimo ballo di Charlot di Fabio Stassi, Sellerio. È una biografia inventata di Charlie Chaplin. Partendo da fatti veri, Stassi prova a immaginare le emozioni del creatore di Charlot. Ma non ha avuto paura a misurarsi con un mostro sacro come Chaplin? Più che preoccupato, diciamo che sono stato di un'incoscienza veramente senza precedenti. Non so neanche come ho fatto. Conoscevo molto, molto bene la sua vita, perché la sua autobiografia fu uno dei primi libri che comprai in una bancarella a Porta Portese. L'avrò letta davvero tantissime di quelle volte da quando ero bambino, perché mi incuriosiva da sempre questo personaggio, il segreto, soprattutto il suo personaggio, cioè la sua maschera, Charlot, sapere cosa c'era dietro questa maschera. Credo che quando ci si pone una domanda del genere, le armi dello storico sono spuntate, non basta il documento, non basta la verità storica delle cose, c'è sempre un'altra verità. Il compito della letteratura, infatti piacere che riconosci a questa storia, comunque nella sua incoscienza, nella sua follia, il carattere di un romanzo, perché questo è. E come romanzo, tutti i romanzi hanno questa meravigliosa dote, che insomma possibilità, che è la licenza di mentire. E perché non approfittarne? In fondo, appunto, si fa un'altra cosa, si va alla ricerca di una verità molto più nascosta, molto più intima, molto più personale. Romanzi molto diversi quest'anno al Campiello. Giovanni Cocco è arrivato in cinquina con La caduta, pubblicato dalla piccola casa editrice Nutrimenti. Un romanzo sperimentale in cui si propongono 12 affreschi che prendono spunto da fatti realmente accaduti. Le proteste delle banlieue parigine, l'attentato nella metropolitana di Londra del 2005, l'uragano Katrina e così via. Si narra così la caduta dell'Occidente. Il romanzo è definito postmoderno. Che cosa si intende? Ce lo spiega lo stesso autore. Innanzitutto dei romanzi complessi, stratificati e polifonici, che consentono di raccontare storie diverse, con ambientazioni diverse, nello stesso testo. In questo senso anche in maniera programmatica siamo in aperto contrasto con la narrativa italiana mainstream, nel senso che si cerca di andare al di là dei cliché giovanilisti per arrivare all'essenza delle cose, come diceva Giuseppe Pontigi. Quindi storie che parlassero, in questo caso che parlano di aborto, di migrazione forzata, di omosessualità, di periferie in subbuglio, e quindi i grandi temi dell'Occidente, i grandi temi della contemporaneità. Postmodern novel, nel senso che quella è la tradizione a cui io faccio riferimento. Nel mondo anglosassone è attecchito negli anni 60 e 70. Beh, noi siamo rimasti anche nel campo della narrativa un po' indietro, e forse questo è il tentativo per dire si può e si deve provare anche un'altra via, soluzioni diverse. Quarto posto al Campiello per Tentativi di botanica degli affetti di Beatrice Masini Bompiani. È la prima volta che la Masini, nota autrice per ragazzi e traduttrice di Harry Potter, scrive, per così dire, un romanzo per grandi. Ambientato nell'Ottocento, protagonista è Bianca, una giovane acquarellista che deve dipingere le piante del giardino di uno scrittore. Bianca è una donna indipendente, viene addirittura spinta dal padre a viaggiare e a lavorare. È un po' un personaggio atipico per l'epoca. Decisamente sì, e forse anche un po' anacronistico, benché si incornici insomma in un periodo di grandi possibilità in generale, possibilità per le idee di muoversi, di cambiare, anche di possibilità di cambiamento. C'è una piccola vena nella storia che parla del pre-risorgimento, quindi siamo in quel clima lì. È veramente un tempo fervido, fervoroso, agitato in qualche modo, quindi ci stava bene anche un personaggio, un'eroina non normale, ecco, che non si muovesse solo nei canoni di quello che si pretende o più ci si aspetta da una fanciulla all'inizio dell'Ottocento, una fanciulla graziosa, di buona famiglia, che sa fare tante cose e che forse deve solo aspettare che qualcuno la chieda in sposa. Ecco, Bianca è diversa perché ha questo talento che trasforma molto velocemente in un mestiere. Questa è la sua caratteristica forte, la sua diversità. Più che altro ho cercato di vendicare in qualche modo delle signore che facevano lo stesso mestiere di Bianca, che l'hanno fatto però più avanti in età vittoriana, vengono denominate tutte insieme Women of Flowers, come se fossero un mazzo di fiori anche loro, e sono queste donne che di fatto facevano acquerelli di botanica, però spesso lo facevano sotto pseudonimo maschile perché il loro lavoro non poteva essere riconosciuto ufficialmente. Infine Valerio Magrelli, poeta, che ha voluto scrivere in prosa un ricordo del padre in Geologia di un padre, pubblicato da Einaudi. Ha raccolto gli appunti che aveva scritto sul padre in 10 anni e poi ha messo insieme queste immagini narrate seguendo un criterio particolare. Ho scelto come unico criterio me stesso. Io dico, seguo soltanto quello che si posa sulla carta moschicida del ricordo. Ecco, le mosche capitano sulla carta moschicida per caso, ecco, il caso è quello che mi ha guidato, anche se in verità questo mi ha permesso di far emergere, o meglio di catturare, quei punti più dolenti, più dolorosi. C'è un capitolo in particolare, il 15, che mi è venuto spontaneo intitolare Leidi, come Leidi di marzo di Cesare, la morte di mio padre, che segna forse il nadir, l'opposto dello zenith, il punto più basso della narrazione, più tragico. Poi ci sono d'altra parte storie invece apertamente comiche. Ecco, io tenevo molto a questo aspetto tragicomico in cui l'ironia facesse da antidoto al dramma. Questi erano i libri del Campiello 2013. Nelle prossime settimane del Cacciatore dei Libri ascolterete le interviste integrali agli autori. E ora però vorrei chiudere con un ricordo di Ugo Riccarelli. Avevo avuto modo di incontrarlo in diverse occasioni, lo avevo appunto intervistato, e oltre a essere uno scrittore di successo, secondo me era veramente un gran signore. Così nel 2009 mi raccontava di uno dei suoi libri preferiti. Sono molto affezionato, molto legato per tanti motivi a, al protagonista di Una solitudine troppo rumorosa di Boch Mirabal, questo pressatore che sta sotto terra e incarta i libri del macero che gli vengono gettati dall'alto, assieme ai topi, assieme agli zingari, cioè ai rifiuti del mondo, e parlando dei rifiuti in senso lato riesce a fare filosofia, riesce a capire qualcosa dell'animo umano. Io credo che probabilmente di questo abbiamo bisogno, di smettere di pensare che siamo tutti su un palcoscenico sotto la luce di un riflettore con lustrini e in un reality show, ma il nostro reality show è la vita reale, ed è una vita piena di schifezze, piena di sangue e di lacrime, come la vita degli uomini, una vita che puzza e che solo saltuariamente è lucidata, e che quindi dovremmo mettere le mani in questa cosa, come fa la letteratura, no, per esempio. Anche per oggi è tutto, buona lettura da Alessandra Tedesco.